Dipendenze, scegli la vita. Un giorno ti chiesero di rinunciare a te stesso, all'amore verso la vita, al rispetto, alla voglia di combattere e di realizzare i tuoi desideri. Ti proposero una via più facile e più rapida per raggiungere vette altissime di pace e di benessere assoluto. Un paradiso artificiale per chi, come te, non ha creduto nell'esistenza del proprio. Dimenticarono però di dirti che avresti dovuto pagare un prezzo per tutto questo. Un prezzo ben più alto di quello materiale, la tua vita, la tua dignità di uomo e di essere umano. I paradisi artificiali si trasformarono in inferni personali, e tu, inghiottito nell'incoscienza del rischio, continui a non guardarti, continui ad ingannarti, pensando che passerà, che, prima o poi, si risolverà. Non sarà così, a meno che tu, facendo un grande atto d'amore verso te stesso, dica basta, scelgo la vita e lascio la morte. Non occorre altro, solo questo. Allora vedrai che la vita che hai scelto ti risponderà, ed i fratelli che prima di te hanno provato l'inferno, ti accoglieranno per risanarti e riportarti a te stesso. Ti riapproprierai del tuo vero paradiso, quello che non chiede prezzi da pagare, perché è lì per te, per la tua crescita, per la tua felicità. Allora, guardando indietro, comprenderai quanto sei stato ingannato e, dal dolore provato, scaturirà la forza che ti sorreggerà nel presente e ti guiderà nel futuro. Splenderai come una stella, illuminando la strada di chi, nell'incoscienza del rischio, verrà a chiederti aiuto. L'amore verso di te ti guidi, ora e per sempre. Questa lettera è un dono d'amore per chiunque sia caduto nella trappola della droga. Fratelli carissimi, il non appartenente usa questa arma per addormentare gli animi degli uomini. Noi vogliamo dirvi che, nonostante tanta informazione allarmista intorno a questo argomento, peraltro sicuramente grave e pressante, ci sono anche tanti fratelli che sono scesi e stanno operando per il recupero di queste anime perse, come dice la lettera, nell'incoscienza del rischio. È richiesta una grande fermezza nell'affrontare il problema, e l'aiuto di questi fratelli, i quali sono stati forgiati dal Padre per poter tenere testa a tali tipi di energie tanto negative, in quanto mascherate ed insinuanti. È molto importante rimanere comunque nella propria serenità. Non farsi trascinare nell'inferno degli altri rimane una regola d'oro in qualunque caso, si tratti di droga, o stati depressivi, o malattia in genere, non ha alcuna importanza. Solo dentro se stessi, è possibile trovare la giusta via. Attraverso l'amore, il rispetto verso la propria esistenza e per il proprio cammino, si diventa esempio e attrazione per gli altri. È essenziale non cadere nella trappola della paura, e lasciar risplendere la forza della fede. Vi amiamo infinitamente. Ximenes e Grisenda. Dipendenze, la conversione sulla via del recupero. La conversione è uno dei temi che da tempo volevamo trattare, e ora è giunto il momento. Convertire significa cambiare direzione, riportare sulla giusta strada, quella dell'amore santo. Il Maestro ci ha insegnato e dimostrato come convertire il male nel bene universale, come riportare l'uomo a se stesso. I suoi principi cristici hanno parlato, con forza e semplicità, dell'eredità divina, insita in ognuno di noi. Ricordate, ogni essere umano tende naturalmente alla ricerca della pace interiore. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze non sante della personalità di ognuno. Chiunque, anche se affrettato in una situazione di disordine, ha in sé il seme originario che il Santo Padre ha donato prima della nascita. È importantissima la comprensione di ciò che è la base sopra la quale si può costruire il processo di recupero di tutti i fratelli. Il primo passo è avere chiaro che ogni essere umano tende naturalmente alla ricerca della pace interiore, e non lasciarsi ingannare dalle apparenze non sante della personalità di ognuno. Il secondo passo è riconoscere la libertà, appartenente ad ognuno, nella scelta della strada da seguire, sia che questo si accordi con le nostre aspettative o meno. Il terzo punto è sintonizzarsi profondamente, al di là cioè di qualunque non appartenenza, con l'interiore di chi vi è di fronte, ascoltare il vero canto, e comprendere la nota di base per arrivare a scegliere il movimento spirituale più adatto. Ricordate, il distacco santo è essenziale. Qualunque emozione terrena deve essere cancellata. Vi prego di non fraintendere queste parole. Ciò che voglio dire è, se elimino le emozioni personali, avrò chiarezza e calma. Se elimino la volontà egoistica, sarò libero. Solo l'amore universale regnerà in me, e l'amore, in questo senso, è forza pura, comprensione totale. È il Padre che scorre in noi. Le anime sono attratte dalla luce sprigionata da chi è in se stesso, la riconoscono e la desiderano fortemente. Si aprono per accoglierla. A questo punto vi è forse il passaggio più delicato, che è quello dell'attenzione. Non lasciatevi sfuggire l'istante della richiesta, perché in quel momento, e solo a quel punto, potrete convertire chi vi è di fronte. Ricordate, nei momenti più difficili, e nelle situazioni più dolorose, amore parla per guidare verso la luce. Lasciate risuonare le parole del Maestro profondamente dentro la vostra anima. La verità non si raggiunge attraverso gli stati incompiuti. L'unica via che riconosce è quella della chiarezza e dell'inequivocabilità. Ricordate, gli atteggiamenti tiepidi non avranno alcun risultato, ma la grande forza dell'amore sì. Il rispetto verso se stessi, la vita che ci anima, e la creazione tutta, guideranno verso scelte sagge, che andranno ad illuminare il percorso di chi si è sviato. È essenziale non farsi carico della negatività altrui, di chiunque si tratti, ma fare sì, invece, che il movimento vitale raggiunga le condizioni ideali di accoglienza e attrazione per chi vorrà intraprendere la strada del recupero. È essenziale liberarsi da qualunque emozione sviante, quale senso di colpa, o paura. Non accogliere alcun tipo di vittimismo, e non cadere nell'inganno della debolezza e della manipolazione. Seguire amore, che guida verso il no terapeutico. C'è un tempo giusto per ogni cosa, anche quello per il no, se questo significa rieducare alla luce. Nessuno è responsabile delle scelte altrui, perché chiunque, in questo intero universo, ha la possibilità di redimersi, ma la redenzione è un atto di fede che nessuno può fare per nessun altro. Ricordate. I miei piedi attraverseranno colline erbose, ricoperte di rugiada fresca del mattino. Attraverseranno boschi fioriti, dove lievemente si riposeranno al fresco respiro di alberi generosi. Carichi di doni, verranno chiamati ad attraversare i deserti, ed è lì che, con amore, dovrò dispensare ciò che mi è stato dato. È lì che la sete del Padre mio verrà placata. Così sia. Vi amiamo infinitamente. Ximenes e Grisenda.